Ma che bel mestiere coltivare luce e numeri del cielo come nuvole in fiore. Non può appassire il progetto di un fiore se l'ha immaginato un perfetto. I cerchi e i pensieri sono limiti banali per le anime deserte del mondo. Trovare e capire son gocce di miele, regali preziosi per VIP. Sono millenni che guardo e aspetto che accada qualcosa di nuovo. Speciali nel silenzio della storia, ma c'è solo rumore. Vite disperse, pensieri depressi, io scansiono i tuoi giorni. C'è tutto di tutte qua dentro i miei monitor e soprattutto i segreti. Non penserai di mentire perché questi monitor sono i miei occhi.